ti ricevo con le orecchie. Santiago 4, dai, 4 e mezzo. Sì, quel segnale lì, dai. Se questa posizione ti ho sentito 7, ti ho sentito meglio, dai. Tu come mi ascolti a me, cambio basso. Vediamo poi se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti, se c'è qualcuno, cambia. Gaba gaba. E già c'era, ma ha fatto finta di nulla, dai. È entrato e poi se n'è andato. Ma più sicura, eh. E non ti credere che non lo faccia, ma lo fanno lo stesso. Nemmeno io, se si può uscire fuori. Lupo grigio. C'è un po' di qua a Reme, a volte ti copre proprio. A colore. Ti capisco, sento che parli ma non ti capisco, c'è un po' di QRM. Adesso ti ho capito bene, dai, ti richiamo fra qualche minuto, adesso ti ho capito, sei arrivato a 7. Però quando c'è il QRM ti supera. Una... Attenzione, binario 10, gabbio. Certo che ci sono. Ah, non è fatto di danno. Sono ripristini. Ti dà l'avvio provvisorio, poi parte tranquillo, dai. Chi era avanti? La... Rientrato avanti, cambi. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno, cambi. Sono con un vecchio baracco, non so se mi senti. Pronto? Mi senti? Luca? Luca? Luca? Un po' grigio, ma perché stai scendendo così basso di radio? Prima ti ascoltavo sempre forte di radio. Sì, ho capito, il segnale c'è, però la radio prima era più forte, cos'hai combinato? Prova a vedere perché ti sento molto basso. E tu mi senti bene? Sì, ma ti sento sempre basso, non lo so, boh. Sì, basso di radio, vabbè, segnale 5, però ti ascolto basso di radio. Capito, dove sei perfettamente, però prima, ti ripeto, ti ascoltavo molto meglio, adesso ti ascolto molto basso di radio, capito? Attenzione, binario 10, cambi. Ma se le voci, ti ho mandato due foto. Guarda questo abbinamento, DAC MC50, DAC MC50, con mitigain al massimo, com'è? Buona, è buona, ma non è diciamo battagliera, dai, come la vuoi tu. È buona comunque, è chiara, è presente, però non è amplificata. Non è amplificata? Niente, niente, niente. L'MC50 è normale come microfono, però è abbastanza forte come radio, dai, non è bassa bassa, no? Oh, te l'ho detto, è presente la radio. Ho capito. Adesso vediamo se riesco a inserire il 60, perché il connettore è uguale. Adesso ci provo, vediamo se ci riesco, perché Perché? Però ci devo mettere la batteria. Vabbè, dai, una prova che facciamo dopo. Perché? Io le piacevo. Le mia mano, mio diavolo, mia mano, mio diavolo, era contro di me. Non era contro di lei? Gianni, hai detto che era contro di lei. Anto, sto provando il DAC. Aspetta, levo un po' la voce. Sentivo questo fruscio, c'era l'HF acceso. Sto provando il DAC con l'MC50 con l'adattatore. Tieni conto che il DAC non è amplificato, cioè che l'MC50 non è amplificato, già lo conosci. Com'è presente la modulazione? Va bene. Vabbè, il 50 non è amplificato. 60 devo mettere la batteria dentro, non voglio aprirlo. Lascio stare così, è giusto per farlo andare, per non usare il solito MB più 5, dai. Allora sto usando l'MC50. Ho mandato la foto a Gianni, guardatela già. KK, dai, va bene. Claudio. Dimmi. Vabbè, sono stato di gamba tesa come no, era grande, claro. Va benissimo anche il livello, non è molto amplificata, te lo garantisco io. Non dico a livello dell'altra, perché l'altra secondo me è un po' troppo alta, questa è perfetta. Proprio bellissima il livello e l'ampeggio rosso, per cui stai andando alla grande. Ma è bella e amplificata. Forse la parte loro sono più lontane. Qua è perfetto, tutto ok. Sì, vabbè, ti ricordo che il DAC non è che spinga molto, sta dando 8 watt, quasi 10 watt modulati, dai. Sì, stamattina non sapevo cosa fare, siccome c'ho l'adattatore io, da 8 a 4, e quindi ho detto, ma vediamo se va, ho visto che va. Io va bene, dai. Ciao Robert, buongiorno. C'è Gianni e Antonio, mi pare. Vai Gianni. Ciao Gianni, l'ho sentito di Suggita e c'è anche Antonio, dai. Mi hai sentito da tutti, c'è qualche donato? No, non penso. Io stavo facendo le prove sul 20, poi ho girato, ho sentito a Gianni con Nicola, Nicola di Bari, che però io lo sento basso di radio. Nicola, vieni avanti, vediamo come ti ascolta Roberto, perché questa radio è abbastanza selettiva, però non capisco. Un attimo per me. Ambento, più niente, a casa, ho fatto un po' di cosettine, sono stato presto. Solito tran tran, volevo fare, salimino un po' su, ma c'è un vento allucinante, c'è un bel vento, allora rimaniamo a terra, tanto, per la giornata che è, la tecnica che la gulita, allora, Claudio, abbassi le voci, i baci di guffi, cuore, cattura Gianni di sigaretta, 9.30 di venti, allucinante, cambio. Ascolta Luca, sto usando il DAC con l'MC50, DAC con l'MC50, non è amplificato, e com'è la modulazione? Buona. Una bomba. Va bene. Cazzo, una bomba. In questo trasporto con le cuffie, sono una bomba. Sì. Vabbè, con l'adattatore. Ma un 60 va bene, ma fischia, non capito perché, forse l'adattatore. Invece col 50 che non è amplificato va bene, c'ho il microfono al massimo, ottimo per la truppa. Ma chi è quell'altro capo di bonietta, Massimiliano? Io sono, c'è Gaia, c'è la musica maletta qua. Aspetta un attimo, ma Roberto ci sigue, Roberto Quadrato. Al telefono. Non ho capito niente, Massimiliano. Con questa radio mi vai tutto in distorsione. Dici. Togliendo l'NB riesco a capirci qualcosa. No, ma si vede. Oh, yeah. Mi sono dimenticato di chiederti le connessioni dell'MB40, del microfono normale, del suo originale, affanculo. Cos'è? Ho detto, mi sono dimenticato prima di vendertelo, le connessioni, ecco cosa ti volevo chiedere, le connessioni dell'MB40. Adesso è tutto scatolato, no. Lunedì parte, capito? No, non lo apro il pacco adesso, boh. No, ma che se l'apro il pacco, non l'ho fatti dire. Forse c'ho qualcosa, boh, mi avevi mandato tu, non so. Ma... Cazzo, io non vi capisco con questa radio. Non ho capito, Massimiliano, cos'è che hai detto? Ho detto che devo guardare le foto se provo qualcosa a mandarti. Ah, ok, no. Bene, va là adesso. Sì, se togliete lei così. Cazzo, perché fa così sta radio, non capito, boh. Ho disinserito l'NB, però devo essere il tuo cazzo NB di Rodac, non è come te l'NB del 440, ma tutto in distorsione, vi ascolto. Bella radio, bella, ottima. Aspetta un attimo, va, lascia qua gli occhiali, va. Ehi. Gappa. e almeno la uso un po'. C'è anche una bella ricezione, un po' la colonnina vecchia c'è, però non gracchia, vabbè, le posso attaccare anche quella dell'SP430, io vabbè. Tu mi senti bene, Massiglia? Così così, la verità. È la verità, un microfono normale, da tavolo, non è che ci siano molti discorsi da fare. L'importante è che vada, poi. Ah, tu mi hai chiesto come ti ascolto, io ti ho risposto, non è che ci sono da fare molti passaggi. Io ti ascolto così così, forse non si sono abituato a sentirti con questo tipo di modulazione. Io ho un microfono normale, quante volte non sono abituato a sentire gli altri, abituatevi a sentire anche a me. Questo è un microfono normale da tavolo, MC50, con l'adattatore sul DAC, se vuoi ti mando la foto. Però io sono in cuffia e vedo che funziona. I watt quanti sono? 8 watt. Non ce ne altri watt. Vabbè, lasciamo stare così. Buona giornata a tutti. Ciao già, buona giornata anche a te. E allora? Sì, ho visto Claudio, ma io mi sono soffermato a guardare solo la verità. Hai visto, c'è l'MC50, non lo conosci l'MC50, non l'hai visto com'è? È simile al 60, però non c'ha il down e up, capito? E c'ha il coso trio c'è scritto, no? C'è lo stemma trio e sotto c'è MC50. Sì, la radio è presente, è una radio normale ma è presente, dai, è una radio bella chiara, dai. Non si può dire che sia di quelle da combattimento, ma è una radio chiara per me. Oh, Massimiliano. Dimmi. No, non è quello, no, quello è il mio, quello è A4, quello è del mobile come A6. Ah, boh, io c'ho solo, per farti una foto, c'ho solo il coso microfono, basta. Oh, c'ho appena appena di Mickey Gain ancora, Guarda se cambia, già. Allora, questa è l'ultima attacca proprio, ora. È cambiato qualcosa? E cosa è cambiato? Più amplificata? Sembra più amplificata, sì. Sì, proprio, siccome c'è un po' meglio, sono molto grandi, non avevo messo al massimo, là. Adesso è al massimo, proprio, non viene più, le fighine, e questo al massimo, clarifer, già va bene, là. Solo quando attacca l'eco mi sento tutti distrutti. Ma in giro mi si viene così attaccato, le MC60 le messo al mio. No, assolutamente. Ti ho mandato la foto, non hai visto la foto. Eia, ma dico, poi averlo cambiato adesso. Allora adesso si sente ancora più forte. No, io faccio bianco un attimo. Eia. Ehi. No, già. Così al massimo, guarda, è a 10. Mickey Gain a 10, se vuoi è comodo, ti faccio sentire il 440, non è che ci siano molti discorsi. No, con quanti watt esce quell'apparecchio quando scaldano le valvole? No, non c'è bisogno di scaldare le valvole, tu lo accendi e lo lasci in stand by, c'è il tasto stand by e poi lo metti in transmit, ma 2-3 minuti. C'è bisogno di scaldare le valvole, già va bene. Allora, esattamente, in scala 20 mi sta dando 15 watt. Già va bene. Oh, yeah. Sono apparecchi belli, cazzo, non parli nemmeno un baracchino, un ballonino arone di 10 watt. No, poi illuminato è un bel bello. Illuminato è un bel bello, hai visto tutti gli strumenti, cazzo, mi ha sul mitterone che va tutto, va. È bello, no, non sono mai riuscito a darlo, non me lo pagano come voglio io e poi me lo tengo perché non mi interessa, è sempre un bel pezzo. Perché tu quanto lo vorresti? Quello lì, 350 euro. Sì, però... Comunque c'è stanno vendendo un Galaxy, se a chi interessa, 200 euro con spese di spedizione, ottimo, nuovo, senza nessun graffio, perfettamente funzionante. No, già. Il DAC è DAC, non spendo soldi per comprare un'altra radio simile a quella, cioè grande così, capito? Rockefeller è il baracchino penso il più grande di tutti. Gianni l'ho pagata a 450 euro, 450 euro, se non chiedi a volte, se non ci credi, capito? In pratica 400 dollari. Ma quella non era quella di Daniele? Sempre bagata, chi l'ha già bagata Daniele, chi l'ha già bagata uguale, cosa pensi che me l'ha regalata Daniele? No, perché ti ho parlato di dollari, scusa, certo, io mi ricordo che era di Daniele, ti ho parlato di dollari, io ho pensato, allora questa qui è un'altra, l'ha presa la mini. Allora, questa l'ha data Walter a Daniele e quando è arrivata a casa di Walter, Walter l'ha pagata a 450 dollari. Lo so, la voleva dare a me. L'unica cosa che ci aveva, quella radio ci aveva una manopola tutta storta e così non mi piaceva. Gli ho detto mi dai l'altra, no, quell'altra no, la tengo io. Quella con la manopola storta non l'ho voluta perché girava male la manopola, io sono pignolo e quando compro una cosa la voglio che funzioni bene. Allora non è questa, perché questa non è a manopole storte, questa è perfetta. Ha delle cromature allucinanti. È perfetta, non le manca niente, nessuna manopola storta, tutto gappa dell'oggero. Non so cosa ti stava dando, forse ne aveva tre. Perché ne ha dato anche un'altra, ne ha dato anche una a Marco, quindi può essere sia quella, non lo so. Allora praticamente sicuramente ha preso colpo nel viaggio. Il perno che tiene la manopola dei canali era tutta, praticamente girava e girava male, come quando una notte è incintrata, me la batte sicuro. No, guarda, questa io ce l'ho qua. Assolutamente, no. Sì, magari l'ha cambiata, Daniele, non lo so, l'ha cambiata, l'ha tolta e l'ha drizzata, non lo so, però c'aveva una, c'aveva quel difetto, e là ne aveva due, quando ci sono andato ne aveva due, poi se ne ha fatta riguardata, non lo so. Ne aveva una che era perfetta, ce l'aveva lui e ce l'aveva attaccata con Sidric. Quando stavo andando a casa sua gli ho detto che apparecchio stai usando, radioamatoriale. Lui mi ha detto no, sto usando il DAC con Sidric. Ah vai. E per credevo che fosse una radioamatoriale. E quando sono arrivato lì l'ho trovato con la radio accesa e il microfono davanti. Poi me ne sono così un po' innamorato. Ma le prove abbiamo fatte noi due, no? Non ce l'avevo anch'io il Super Sidric. L'ho fatta con il Super Sidric, col Tane più 3, con l'MB più 5, con l'MB più 4. Posso fare qualsiasi cosa con la... Riceve tutti i microfoni, tutti. Vedi adesso, ho provato ad attaccare questo, funziona anche questo. Ma, vabbè. È che col microfono normale è cupa la modulazione, molto cupa. Asco, quando stavo parlando a volte risultava una voce calda, si sentiva che c'era qualcosa di valvolato, ma infatti pensavo che fosse un grosso apparecchio amatoriale. Quando l'ho visto, io non l'avevo mai visto il DAC, non conoscevo manco l'esistenza, quando l'ho visto ho detto, ma sono mia lineare. Poi mi ha detto, ma non vedi che ci attaccate il microfono, questo è un apparecchio. No, non ci credo, cara. Quando l'ho visto mi sono subito innamorato, ho detto, aiuto, vendimelo subito. E lui me l'ha detto quanto voleva e poi mi ha detto, guarda, però non ti do questo, ti do l'altro. No, io voglio quello lì, non me la butto là. Se lo vedi all'altro è tutto abbandonato, strampato una bacia. No, io l'ho sempre custodito bene perché è un pezzo rarissimo che non ha nessuno, sono pochi in circolazione, qua ce l'abbiamo io, Marco e Walter, ma in Sardegna penso che non ce ne sia manco uno, capite? Quindi è un pezzo raro, io ce l'ho sempre, ce l'avevo dentro l'armadio, l'altro giorno pulendo, mettendomi a posto un po' tutta la roba, l'ho tolto e l'ho messo nuovamente in stazione, tanto ci sta. E l'altro giorno l'ho acceso, però cazzo, c'era Roberto, mi stava ammazzando, e allora l'ho spento. Adesso stamattina mi sono messo io a provare, perché con i sci non ne ho fatto, ce l'ho già, a provare se andava al 50, già va bene. Io qua devo abbassare, sono un ripiano tutto, lo abbasso un po' più in giù e ci sta tranquillo, ma bene, però mi giusto. E non l'hai visto dove l'ho messo io? È all'angolo, sopra addirittura c'è anche il monitor del computer, perché c'è i gommini, perché non c'è un graffio la carcassa. adesso mi lucido bene i pomelli, li tolgo tutti, mi lavo, me li pulisco, sono cromati ma belli, lucidi lucidi. L'unica cosa è che quando attaccano l'ecco, metto, cioè, ANL / NB, adesso per esempio ho inserito, ecco, così ho inserito l'NB e così non ho inserito. Mi fa come si dice, sento tutto, capito? Sembra che sia fuori frequenza. Mi storto le siti perché non riceve gli apparecchi quelli codificati, non li riceve come faceva 140, poi mettevi il filtro e li sentivi bene, se invece non c'era il filtro li ricevevi come 13.2. E così fa anche sia 4.30 che 4.40 140. Devo disinserirlo nell'NB, capito? Se non lo disinserisco esce tutto distorto. Vabbè, vediamo chi vuole entrare qua. C'è qualcuno che è rimasto. Massimiliano mi ha detto che faceva quel Rix. Aspetta, io mi sto aspettando un'amica da consegnargli il computer, che l'ho sistemato. Così Varidina Palluni. Palluni, pa cosa Palluni? Varidina Palluni. Si sono dinaghissi qua. E vabbè, sono maraggiussi, come ti dici? Chi ti aiuta? Nessuno. Meglio maraggiussi, piano piano, cosa faccio quello, 5 qua, 3 là, 2 qua, ti fai diciamo, la giornata. Che dice, aiutati che Dio ti aiuta. E vabbè, ci siamo compresi comunque. Quindi già va bene lui, a Puglia che va bene, alla grande va bene. Adesso mi devo prendere il vostro televisore, è nuovo, un Panasonic, 42 pollici, cioè veramente nuovo. Lo voleva questo ragazzo, questo tipo che mi chiamava la forma, mi vuole dare 100 euro, 100 euro non lo do. Io vado su una scheda d'alimentazione 100 euro, e ho detto mi dai 150 euro te lo porti via, ma è nuovo. Cioè usato, però è nuovo, abbastanza tenuto bene. E ma voglio fare fuori questo, quello, me ne compro uno, me ne tengo uno e boh. Me ne compro uno già, come si dice, lo smart, da. Ehi, lo smart TV, io ce l'ho, è bello. Ascolta, Lu, ti stavo dicendo a proposito di smart TV. Se io prendo il cavetto HMD, no? Siccome c'ho un bel giga adesso nel telefono, sia io che Ilaria, col cavetto HMD possiamo vedere, posso usufruire del video dello smart TV. HDMI sì, ci vuole, adesso non mi ricordo come si chiama l'altro attacco. Sì, certo che lo puoi fare. Gappa, ok, grazie dell'info, sì, lunedì vado da Fusaro, mi compro il cavetto, quello lì, HMD, lo attacco allo smart TV, alla TV, e metto il telefonino, perché ci sono bei film in anteprima, capito? E guardarli al telefonino è un casino, ma allora usufruisco di quello lì, da HDMI. Però devi fare l'ingresso, non so come si chiama l'ingresso del tuo telefono, se è come quel mio, come l'S10 o come quello, come l'S6, il classico, dai. Devi prendere quello lì e HDMI. Ma se vai da Fusaro dovresti pagare un pacco, basta ordinarlo da internet, aspetti un paio di giorni e ti arriva. Aspetta un attimino, dai, che esco fuori, arrivo subito, mi prendi Gianni. No, vabbè, io c'ho quello, il 6, ma Ilaria c'ha il 9, se l'ha ricomprato nuovo, va bene, dai, le prendi già. Ci siamo sovramodulati, ci sono anche da Media World, Claudio. Oh, i cavetti, e quanto costano, li hai visti? No, vendono tutta quella roba lì, capito? Non so quanto costano, però quella roba la vendono, e penso che costino meno. Ah, così, si dice HDMI. Grazie Anto, grazie, sei un amico, riprendi. Antonio Riserva, Anto. Lotte 40, lo conosci Claudio? Il? Lotte 40. Ma come radio? Sì. Sì. E com'è? Come il 440? Non penso proprio, scordatevelo. Scordatevelo quella radio. C'è una bella radio, ma nemmeno non ha le prestazioni che c'ha il 440, no? C'è quanto lo stanno vendendo? 300 euro. E il petto suo usa è vecchiumi, è prima del 4.40, non guardare perché 8.40 è dopo, no? è prima, perché 9.40 non è prima del 4.40, cosa c'entra? È prima, quello è prima del 9.40. Prima del 9.40, hanno fatto l'8.40, il 9.130 e poi hanno fatto il 9.40. E invece come te radio, pure dopo li sono vendendo. Perché ha intenzione di riprenderti una KF? No, lo stavo guardando qua su internet, non lo conoscevo come apparecchio, volevo chiederti se andava bene in AM. Cioè, se guardi le caratteristiche, apri la scheda tecnica, guardati le caratteristiche, mi pare che abbia 25 watt in AM. Sono radio vecchie già, le ho avute tutte quelle io, il 120, il 130, il 140, il 110, l'820, l'830, l'840, 920, 930, 940, tutte le ho avute le radio, ma c'ho le foto e non è che sto parlando a vanvera. Ho un album delle foto proprio di tutte le radio che ho avuto, la linea 101, la linea 102 della IAE, il 101 ZD, la linea Sommer, la linea Drake, ne ho avuto due, c'ho le foto. E non c'è avuto radio. Massimiliano, fateci. Oh, sono rientrato. Ehi. Ho sentito l'altro giorno parlare della linea Drake. Io l'ho data la linea Drake. Perché chi è che c'ha la linea Drake a Sassari? Non mi ricordo con chi stavo parlando, con forse con Giovanni, quell'amico mio, quello che aveva. Sì, stavi parlando con Giovanni. Ti ho sentito nominare la linea Drake. Io ce l'ho avuta la linea Drake. Andava benino, insomma, riuscivo a farlo andare anche in AM, dai. Però non era una grande cosa. Ci volava parecchio. C'ho tutte le foto, sia della linea Drake, sia della linea Unida N2020 che avevo venduto a Franco Delta 1, poi ce l'ha venduta, sia la linea 101, 102 e 101 ZD, tutte e tre le ho avute. Oh, non mi ricordo, già me le avevi fatte vedere quando sono venuto a casa sua all'inizio, quando ci siamo conosciuti. Sì, in quel periodo ero ancora in W0, quindi non è che gli HF le potevo usare, però ce le avevo tutte, mi piaceva molto la roba valvolare, da poi alla fine se non le usi è un casino, ce ne metti le valvole e basta, e poi non le trovi neanche. Avanti già. Ciao Roberto, ciao, ben sentito, dai, buongiorno. Ehi, ciao, sono tanto a Termino per una telefonata, chi è rimasto poi già? Ah, io, Massimiliano si è spostato, chi c'è Claudio? Eravamo io e Claudio, basta. Forse c'è, come si chiama, Lupo Grigio, vediamo un po'. Lupo Grigio, ci sei? Ah, te lo doveva fare non so che cosa. Perché io lo sentivo basso del radio, il segnale è buono, anche se era nel poggiolo di casa sua, 5, però basso del radio, mentre prima arrivava un bel forte il radio, non ho capito cosa ha fatto. Si compra il mio di baracchino, si può in macchina e si sposta dove vuole. Già. Lascia perdere, vabbè. Non so, una persona c'è la possibilità di comprarsi quello che vuole, comprati un bel baracchino, un'antenna, organizzati visto che ti piace, cosa stai con questo portatile facendo il gatto tutti i giorni, sali e scendi dal tetto, ti rendi freddo, gatto, tutte le tempere sono su. Io dico, fosse stato uno non la possibilità, ma grazie a Dio la possibilità ce l'ha. Se ti piace comprati un bel baracchino, un alimentatore, spendi una volta. Ma sembra che non riesco a capire io perché sia così. Perché è timoroso, ha timore delle persone che dicano cosa, che questo, che l'altro, si mettono mille problemi. Bisogna buttarsi e fare le cose, se no poi la gente, dopo, quando la vede piazzata, può dire quello che vuole. E a me mi pare un problema di rizzo, eh? L'ho già detto. Vabbè, mi sembra c'è un problema di riccio. Però guarda, non si esprime. Chi ti ci acconsente, c'è quello. Cioè, non è che uno può pensare che dammi quello, dammi quell'altro. Sì, ma no, si può dare, uno che ne ha bisogno, ma lui, grazie a Dio, non ha bisogno di niente. Fui stato in lui, avrei preso il computer, ecco, mi voglio comprare questo. Ti compri un bel baracchino, norma c'è, tranquillo, un'antenna che non sia un'antenna esuberante, che possa dare fastidio al condomino, ma sei tranquillo, ti siedi e parli con tutti, cioè, non si butta con questo portatile, cazzo io. Ma questo è sempre il DAC? Sì, ho aumentato il micchia al massimo, che Gianni mi ha detto che era bassa di radio, al massimo a 10. No, è perfetto, non tocca nulla, poi la modulazione è proprio valvolare, si sente, è bella corposa, non ha nessuna tonalità che ti manca, proprio piena, bellissima, come piace a me. Per me, l'ho sempre detto, quella del DAC, con un bel microfono adattato, è la più bella di tutti dei baracchini. Sì, ma ieri stavo guardando, mettendo a posto i cassetti, le cose, giusto per ammazzare il tempo, ho visto che c'erano due adattatori, siccome erano più due, 4-8, a 4-8, e quindi ho detto, non ci ho messo cartellini, invece uno è della ICOM, l'altro è della IAIS, capito? L'altro è della IAIS, e quindi io ho messo l'adattatore, e sull'MC60 mi fischia, ma poi ci vogliono le batterie, quindi non esce, mentre il 50, che è un microfono normale, non ha bisogno di batterie, esce così. Mi ho messo le cuffie, ho visto che va bene, insomma, poco più di un microfono normale, dai. Allora io ti dico, come spinta sei, come si chiama, con il livello, diciamo, l'intensità microfonica sei più o meno a livello dell'altro, di quelli che usi solitamente, lampeggia il rosso, per cui siamo allo stesso livello. La modulazione però questa è più lineare, proprio perfetta, naturale, per me è la migliore di tutti, con questo tipo di microfono, proprio perfetta, non vedo troppi bassi, troppi acuti, perché tu ce l'hai più corposa con gli altri, più da combattimento. Questa però è naturale, cioè quando tu ti vuoi fare una cosa alta fedeltà, questa è la tua voce naturale, almeno io qua ti ascolto così, sto guardando anche la data di spettro, è perfetta, proprio non ti dico che c'hai difetti, con qualche altra, ma l'altro giorno ti ho detto di troppo pompata, ti dava un effetto troppo coso, esagerato, questa la modulazione è perfetta, le altre spingono di più, niente da dire, però qua cacca, stiamo parlando di qualità, di alta qualità. Vabbè, l'altra c'ha i processori, cazzi e mazzi, questa c'ha solo il Mickey Gain, ho messo al massimo il Mickey Gain, non c'è adattatore impedenza, l'MC50 non c'è niente, capito? Quindi così, una prova, giusto per, se poi le metto l'MB più 5 cambia totalmente, con l'MB più 5 è a livello non del 440, ma quasi, spinge un bel, perché l'ho già provato, però volevo fare questa prova per non mettere altri microfoni in mezzo ai piedi, c'era l'MC50 proprio lì che è attaccato al coso, al 780, l'ho staccato, le ho messo la prolunghetta, là. Già va bene, i minibusciani di radio da usare, vediamo se è rientrato Massimiliano, ci sei? No, è indaffarato a fare il fuoco, riprendi già. No, io non devo fare il fuoco, mi devo mettere la pasta al forno, ma più tardi, e robe. L'hai messo a posto tu con l'apparato? L'hai fatto allineare? No, fa tempo non lo faccio allineare, però ho notato una cosa, c'aveva una funzione, adesso non so se sto usando quello solito, questo qui è il 44, c'avevo qualcosa dietro, c'avevo un commutatore, non mi piaceva, l'ho eliminato. Ah, non sai che sia quello lì che facesse quel problema. Può darsi, in ogni caso se Fabrizio mi fa la cortesia, c'ha qualche minutino, glielo porto e glielo faccio controllare, anche in banda laterale, tutto. No, roba, non ti sento neanche più sui 14, non c'è né segnale né fruscio. Adesso sei perfetto, cazzo, ma gli altri giorni era una cosa spaventosa, segnale 9 mi arriva, sicuramente c'avevi qualche rientro di RF, non lo so, non ne attaccate di questi commutatori che non servono a niente, o compri un commutatore serio della Daiwa, della Connection, quelli della IAES mi pare anche, roba professionale. Io ho il commutatore Kenwood della T230, capito? Commuto lì tutte e tre le radio Kenwood, capito? E sono sicuro che va bene. Ne ho anche uno dentro il cassetto della Oxin, che sembrava forse chissà che cosa, ma sono cagate, non servono a niente. Sì, ma me ne sono accorto con questo cazzo di cosa. Adesso non attacco direttamente qua le MT3000, però l'ho messo per le altre radio, perché devo tarare il coso, il Rosmet, lo devo mettere a uno col carico fittizio, quando c'ho tempo, è che devo soltare un po' di roba, anche se c'ha le ruote, tutto questo buble, ma non ha giù tempo, ma quando ci avrò tempo lo faccio. E io perché l'ho tolta una base, vabbè, se no, se metto l'altra L non passavo dietro la finestra, è sempre un casino per mia moglie, stava sempre protestando, devo pulire i vetri, non c'è posto, e l'ho tolto, ho lasciato una base solo, ho abbastanza roba perché la base è molto grande, però se metto quella lì ce ne sta di roba, capito? È un casino, è meglio avere quelle poche cose, io ho tutto quello che serve, ma avevo un bel di roba praticamente in esposizione, sì, l'accendevo, ogni tanto la facevo andare, ma non serve a niente così, capito? Sì, è vero, sono le cose che utilizzi, è meglio, tanto l'attività che fai è su quelle frequenze lì, è inutile, si ripeti di tante cose, io ascolto per quello. Sì, ho capito, io anche se non ascolto, c'ho tre basi VHF e UHF, c'ho due basi HF, e accordatore AT230, sotto c'è il 430, 440, colonnina esterna, alimentatore, il 140, dall'altra parte c'è il 720H, il 701, e cazzo, dall'altra parte ancora a sinistra c'è il DAC, tutto il computer, la serie di computer, tastiere, ce n'è poco, c'è tutto quello che ti serve, dai. Ma tu c'è anche il 701 dalla che sei arrivato? Sì, e allora? Il gemellino mio, sì. Ma cosa lo utilizzi quello? I ponti solo. Ma riesci a aprirlo qualche punto? Anche il 711 apre i punti? Certo che riapre, c'è la schedattoni, sì. Oh, non lo so neanche, questo che c'ho io c'ho la schedattoni, quello che mi ha dato tu. Non lo so, Roberto, non lo so, quello a me me l'aveva dato Gavino Joker, me l'aveva dato perché aveva fatto un lavoro, che cos'è, io non mi ricordo cosa aveva fatto la verità, non voglio dire stronzate, e gli avevano dato questa cosa qui, e lui pensava fosse un 140, perché vedi che è uguale a un 140, è preciso identico, e invece quando l'ho acceso è apparso 145, allora mi ha telefonato e mi ha detto, vabbè, c'ho questa radio, così ho detto, portamela a vedere se funziona, vediamo, me l'ha portata, e in pratica gli avevo dato, aveva voluto in cambio, perché soldi non ne voleva, mi ha detto, no, non la sto, mi serve un amplificatore, e se aveva portato via l'amplificatore che avevo per la 27, quello grande a 5 valvole, in più non gli avevo dato un lineare per la macchina anche, capito, in cambio di quella radio lì. Ok, vediamo se c'è qualcuno intanto, avanti, ti vuole entrare su 10. Quindi vabbè, non so se non l'ho mai aperto, ha un ottimo funzionamento, un ottimo ricevitore, eccetera, però non l'ho mai aperto, ho preso i punti, questo che c'ho io ho 10 dei punti, avanti già. E vabbè, che dirti, guarda, dovevo scendere a pulirmi la macchina dentro, ma non la finisce una gara. Mi sono sdraiato, adesso mi sono alzato alle 8 stamattina per fare tutte le cose che dovevo fare, ho fatto la lavatrice, il frugato, steso la roba e ho messo anche la carne a cominciare a cucinare, poi a luna la riattacco e la faccio cucinare, qui c'è tutto pronto. Ma ti sento sempre carne, ma non si mangia niente troppo a garrido. Io la carne la mangio ogni giorno, perché il pesce a me non piace. Cazzo, ma non fa male la carne, ma carne rossa mangi tutti i giorni? No, mangio carne di pollo, mangio carne rossa, carne di cavallo, ti posso dire capocollo, un po' di tutto. Che cazzo già, mano tutti i giorni, carne di pollo la puoi mangiare, carne bianca la puoi mangiare tutti i giorni, ma carne rossa io la mangio una volta alla settimana solo, carne bianca sì, perché si può fare, ma la carne rossa, cazzo, mangiare la carne rossa tutti i giorni fa male, fa male la gotta. A me non mi ha ancora gottato, ma fa male. proietti che c'è il Ferrosetti, tutti di Mazzone Scira. So già, la gente non ti sto augurando che, però fa male. Detto dai medici fa male, la carne rossa tutti i giorni. Una volta a settimana, due volte a settimana si può mangiare, ma non la puoi mangiare tutti i giorni. Io la carne bianca sì, pollo ne mangiamo un bel, mi piace in tutte le maniere. Però carne rossa no, carne rossa ne mangiamo poco qua, perlomeno noi, e poi non so che piace. Avanti Robe. No, io carne zero, qui posso mangiare il pollo, il salsiccione quando ci sono le arrostite, cose così. Qualche volta la fettina di cavallo fatta sola di scarpo, ma tutto il resto niente, solo pesce io. A me il pesce non piace, mi piacciono i molluschi, i frutti di mare e basta. Qualche crostaccio. Alla cosa per dire non mi incascia assai, mi piacciono più i gamberoni. Però pesce proprio, guarda, lo pescavo e a volte lo regalavo, perché a me non piaceva, lo davo ai miei figli, lo mangiavano loro, poi lo regalavo. Vabbè già, pesce già fa bene, eh. Anche io non ci vado matto, mia figlia le piace molto. Va bene, aspetta un attimo che qua stanno frullando, voglio vedere qua stanno preparando, forse qualche crema di melanzana. La torta. Aia, oggi c'è torta. Riprendi Robeo, Robeo un minuto, arrivo subito. E la torta non fa male. Questo già. Se pensi che noi i dolci li mangiamo, metti forse lì. Ogni, non lo so, non ti dico neanche, ma oggi proprio deve essere qualche eccezione, vuol dire ci sono gli ingredienti per fare questa torta, se no è difficile che mangiamo dolci. Io per dire oggi sto facendo un po' l'arrosto, l'ho messo un po' a fare, adesso lo faccio finire verso l'una e c'è un cappuccio. C'ho cosce di pollo arrosto con le patate. No, io le ho fatte l'altro giorno. Allora, se tu c'hai le cosce di pollo, se prendi le cosce che non siano molto grandi, già, le passi all'uovo, pane grattugiato, e le metti al forno, e poi mi dai la risposta. E a me già mi piace in tutte le maniere il pollo, mi piace, lo faccio appena spezzatino così e lo faccio con il peperone. Lo faccio alla cacciatora, lo faccio un sacco di voti, poi i petti di pollo mi piacciono solo in una maniera, fatti alla pizzaiola con i capperi, l'origano, pomodorini, le cipolle, fatto arrosolato dalla cipolla e poi messo i capperi, pomodorini, cipolle, origano e via, e un po' di mozzarella sopra, e sono una bontà. Siamo buoni a poco che cosa. Va bene, va bene. Io ho un altro tipo di cucina già, no? Troppe spezie. Capri li uso solo con la pizzaiola. Riprendi Robe che arrivo subito. E quella è la pizzaiola, fatta la pizzaiola la casa. Ma non si è sentito nessuno oggi, già. Erano prima c'è 45, c'era Luca, c'ero io, c'era quello ticchettac che sigaretta, non so cosa cacchio dice, non si può prendere nulla. Sigaretta, che è questo sigaretta? È un CB, praticamente un camionista spagnolo, che non capisce ciò che dice, si fonde da voi, tacchi, sigaretta, tacchi. No, io dicevo a questo Portogallo, dal Portogallo vicino a Porto, a 10 km era, parlava qualcosina di italiano, si faceva, e si è messo a cantare, non mi ricordo come si chiama, Patrol, un nome così, Mario, il nome, e lo devo sentire cantando un italiano, sono un italiano, poi mi ha detto, vabbè come sono andato, bene, guarda, troppo bravo, meglio di Toto Cutugno. Tutti quella canzone cantano, quando c'è anche Mario, si chiama di nominativo, non me lo ricordo, Massimiliano già lo sa perché lo copiavamo sempre insieme, quello lì canta, lasciatemi cantare, vuole sempre a cantarla quando entro. Poi ha iniziato a parlare di carne, che lui mangia carne, carne di porco, carne di mucca, carne di capra, carne, tutti i tipi di carne all'incanto, poi con le patate, con quello, con quella, e poi era simpatico, rideva, si metteva a ridere. C'aveva un Kenwood, non so che modello era, un 440 con 400 watt di lineare, un'antenna non so cosa, era troppo, arrivava a bomba, ma non per più 20. E chi lo è? Questo di, del Portogallo ieri, ma poi ci siamo stati parlando. Oh. No, io ieri mi stavo guardando, prima stavo guardando un film al, al 34 lì, al canale 34, poi ho girato e mi ho guardato un po' di economia. Se non si parte, vedo casino. L'ho visto quell'imbecille, c'erano le Rai 4, abbiamo Rai 4, Rai 4, c'erano, li avrei schiacciati quei politici di merda. Anche in Calabria. Calabria hanno aperto ristoranti, tutto, hanno aperto tutto. I sindaci sono andati contro il governatore, contro il presidente del Consiglio, capito? Invece in Sardegna, nonostante siamo una regione autonoma, che possiamo decidere ciò che ci pare piace, a Solina se gli hanno proibito di aprire i bar, i ristoranti, gli estetisti, i barbieri, capito? Ah guarda, mi dispiace dirlo, però è un incompetente, cioè ci vogliono le palle per fare queste cose. Hai visto quello della Sicilia, il governatore, a vedere, ci ha messo nei traghetti e bloccava tutto. Cosa vuoi ti dica? Io sono uno di quelli penalizzati, poi vediamo, io il 4 ho una riunione con altre cose, devo andare a Cagliari con mio cognato, vediamo cosa ne esce fuori, perché così non si può andare avanti. Allora, so, io domani, da lunedì io sono tranquillo, non me ne fotti nuda, io vado a visitare chi devo visitare e poi volevo vedere cosa mi dico. Tanto sono tutti anticostituzionali, non farò il prepotente come qualcuno, però io dico no, io sto andando a visitare a un amico, mia figlia, cioè volevo vedere cosa mi dice. No, io sono uscito con mia figlia l'altro giorno in macchina. Siamo andati a fare dei documenti importanti e era tutto avanti con me, con la mascherina, tutte e due. I carabinieri mi fermavo e dicevano che si doveva sedere dietro, ho detto voi perché vi sedete uno a fianco all'altro, qua siete diversi da me. Ma pure loro si trovano a disagio, ah, mi dispiace dirlo, però ci sono, poi ci sono i protagonisti, cazzo, che mi fanno venire i nervi quando fanno gli splendidi, tipo quella volta che è successo vicino a te, però ci vuole anche un po' di elasticità, non puoi fare una multa a uno che sta pescando in una caletta che non vede nessuno a 300 metri dalla spiaggia da solo in mare, hanno fatto venire la capitaneria di porto, ma stiamo scherzando, a scomodare una capitaneria di porto un mezzo che costa soldi muoverlo, o quello con l'elicottero seguendo quello in spiaggia da solo, ecco l'abbiamo preso, l'abbiamo trovato, poi terroristi, e poi ci sono quelli che fanno tutti i cavoli che gli piacciono e non ci vanno a controllarli, quelli che stanno dietro a comunitari, zingari e cose cantanti vicini. Qua è successo un casino, Roberto, qua è tutto in mano alla Procura della Repubblica, perché quella che ha messo il video non lo poteva mettere, capito, infamato la polizia municipale, c'è un casino, penso che l'abbiamo denunciata, non lo so, e stanno ancora cercando testimonianze. Peggio per lei, io sono abituato a guardare, farmi fatti miei, non devo mettere niente su rete, niente, sono tutti pazzi. Cazzo, tu fai un video di quelle dimensioni lì, con tanto di municipale, dici che lo stanno picchiando, che fanno, fai intervenire, fai un casino, ha fatto, ma si arrangia. Mi attenti quando si fanno queste cose, a conoscere le leggi. Si possono filmare, ma non divulgare su. Su Facebook, su cose come hanno fatto. Lo sto dicendo già. Questo c'era la polizia l'altro giorno, perché abita nel mio palazzo quella che ha messo il video. Io non la conosco neanche, me l'ha tenuta. Buongiorno e buonasera. Però mi meraviglio, è una dottoressa, è una psicologa, figurati. Secondo me si usci imbecille. Ho visto che c'era la polizia, il borghese, l'hanno citofonata e è andata con loro, quindi è una cosa seria, si arrangia, meglio per lei. Mi ha dato fastidio che le stavano usando violenza, ecco, quello magari se l'ha fatto per quello, non lo so, vabbè, comunque è meglio non parlare di questa cosa, se non si non si già rimuranno. No, vabbè, ti prendo come testimone perché sembra che hai visto. Noi ci hanno già sentiti tutti, tutto il palazzo, sia il mio, quello di fronte, tutti. Quindi io quello che ho visto ho detto, però non ho ingiuriato nessuno, questa ha detto frasi al telefonino allucinanti. Venite che i vigili urbani stanno picchiando una persona, ma cazzo, ma cos'è da dire, se non stanno picchiando? Stavano l'hanno strattonato per sederlo in macchina, che cazzo stavano picchiando? È una cosa normale. Cos'è che stavano picchiando? Ma stai buffonendici. Quindi se la vedrà con la procura, non sono fatti che mi interessano a me. Avanti Roberto è tornato al telefono. Davvero? Non penso al telefono, quando telefono a Roberto si sente la sirena. Pare siano arrivati i carabinieri a casa Giulia. Cazzo, non vedo picchi di modulazione in questa radio. Oh. Ma picchi c'ho, picchio, non ne ho picchio. Carlo lì non ho visto. No, io ho un merlo. Ma parlate però. E allora? Prova a parlare e lasciare un attimo fermo che voglio guardare se c'è picchio. E se parlo lascio fermo, quindi devo parlare. Ora. No, qua non si muove niente, appena. No, ma con qua è fisso qua. Infatti, se è fisso qua, quindi. Se fischio magari sì. Se fischio già si muove. Ma perché tu non hai mai visto un merli con cuomani? Ehi, te ricordi il Gavino Urro già, tu che hai lavorato a Protosi una vita in piazza? Abitava in piazza di fronte alla farmacia di De Murtas, allora, no? Di Signora Maria De Murtas, zio Gavino Urru, che ci aveva quel merlo indiano, l'aveva portato quando lavorava, cazzo, all'estero ha lavorato zio Gavino, che stava sempre gridando, nel poggiolo ce l'aveva. Sì, poi ne ho conosciuto uno di un merlo indiano che praticamente in via delle vigne facevo una consegna in questa casa e praticamente quando c'era il campanello diceva posta, era un po' più di ormai che a cavolo era, una volta si è affacciata la padrona, mi ha detto questo delinquente che la fa impazzire ogni volta e praticamente mi faceva, aprivo lo sportello, cigolava e faceva il ciguglio dello sportello uguale e poi quando suonava il campanello diceva posta, perché lui dice che sentiva il postino e lo imitava, capito? Cazzo, quello di Gavino era un bestione, poco era grande, dalla rabbia l'aveva portato, ma bellissimo, poi è morto di vecchiaia, poverino, ma sai di gazzate che diceva in piazza, tutti ci fermavano, lo chiamavano e lo bruciava, fischiava, parlava, faceva il gatto, ma quanto faceva bene. E ce n'era uno al bar dell'Agraria, quello che adesso non c'è più il bar dell'Agraria, ce n'era uno lì che faceva il fischietto, poi dicevano guarda che buona quella, lui faceva... la bruciava, dopo faceva il fischietto del vigile uguale, che proprio così, preciso, la 500 faceva, quando metteva il motto, la 500, poi entrava e diceva buongiorno, quando te ne andava diceva buongiorno ogni volta, e poi mi pare si era venuto il tentuero, tutto capito, se l'ha venuto la più brutta. Se Gavino era un bel cazzo, era togo quello, mi ricordo, quando c'era la festa grande, stava nel poggiolo e ci venì a cantare, ripeteva tutto quello che dicevano, fisciughe, casino doveva dire. Io figurati che ero all'angolo, no? Perché dove avvino era proprio la farmacia dei Murtas, io ero all'angolo dove adesso c'è 5 Ruglio, no? Lì. Allora, cazzo, si sentiva tutto, anche la mattina ogni rottura di balle stava sempre fischiando. Infatti diceva di capire, ma che non gli serve la bocca, lui avevi detto, lui deve parlare, deve cantare, deve fischiare, guarda bocca brutto lo manzano. Ui, è bello carriere, fatto hai. No, fa quei fischi penetrati, proprio al... Ogni avruscio. Un altro, però no, non era qua, dove ero io lì, Valle d'Oria, no, Valle d'Oria, Mutizia era. alla Mutizia, andando a Balesci. C'aveva un pappagallo però, un cacatua. Ma bello, un cazzo, quanto era bello. Ma grande, bellissimo, questi colori allucinanti, anche quello parlava. Un amico mi ha detto, un amico che guida l'ambulanza, mi ha detto che è andato a portare un malato a Valle d'Uria lì. Ha detto che andate, questa casa era tutta piena di pappagalli, di quelli che parlano, di quelli grandi. Ma erano tutti liberi, volavano nell'appartamento, andavano da una parte all'altra. Dice che aveva la casa piena questo qua. E se non sarà l'issue, se non sarà quello, e a Valle d'Uria poi andando verso la Mutizia, lì, e c'era un signore che aveva questo pappagallo, io uno, pur ne ho visto, perché un giorno stavamo facendo un lavoro lì vicino, ed era nel poggiolo, e il mio cugliato dice, isciu che bello, ma non c'era coda, minimo era un metro di coda, c'aveva, grandissimo, era giallo, verde, il coso bianco, il becco giallo, giallo, giallo, ma grande, cazzo, parliamo un'acqua, che e quel cacata sono dei bimbi. Io ho un'amica che c'ha il genero che li alleva, no? Che si fa quei allevamenti, questi pappagalli grandi, che tra l'altro sono centenari, moriamo prima noi, ha detto di loro. E quanto campo ha detto questo qui una volta, quando hanno fatto quella fiera degli uccelli di Albercato, che ti avevo detto. Sono avvicinato e ho chiesto a questo che li prende, ma quanto duravano, che vita avevano, lui mi ha detto, guarda, non te lo dovrei dire, quelli campano più di te, campano anche 100-110 anni, sono, se non si ammalano campano così, cioè, costava 1500 euro. È un bel show di costa, te lo so, costano un bel show di, un bel. KK, Massimiliano, che fine ha fatto? Massimiliano, pari due. Vabbè, il Berrettiano dal pappagallo ha una differenza: il pappagallo ripete, invece il Berrettiano ragiona proprio, perché tu gli dici come si chiama quella e ti dice il nome. Ah, così è, infatti, il pappagallo è. Il pappagallo è proprio. Che si ripete. Va bene, Luca. Con la metà fianca a me c'è il pappagallo e fa. Fuori di capo. Ma con quelli tutti colorati? Sì, bianco, giallo, bello, cavolo, e parla anche. E cosa dice? Vabbè, adesso comunque mi ha detto che parlava, adesso non lo so, forse perché sta invecchiando. Comunque canta sempre quella canzone lì. Poi sta. Invece quello di Edoardo, di un amico mio che si chiamava Loretto, quando dicevi Loretto poveretto, diceva, no? E quando facevamo servizio ambulanza, il CISO non c'ha i gradi, no? E c'era il maresciallo era tutto quanto bello, sempre dritto, sempre composto e cose, poi tu già l'hai conosciuto a Giancarlo. Fatto sta che un giorno è entrato Giancarlo e lui gli ha detto, papà, gli ha detto, maresciallo, stronzo! Quello siete voi che l'avete segnato! Figurati, tu ci fai una rapina che fai un pappagallo o un merlo, vedevo già così. Poi quello lì, quel merlendiano lì che aveva Edoardo, le faceva, gli puliva la pellicina che c'è attorno alle unghie, lui lo toglieva dalla gabbia e lui prendeva col becco, gli puliva tutta la pellicina delle unghie, gli piaceva. E stava fermo, non scappava né niente. Poi cantava Fratelli d'Italia, fischiava, faceva quella canzone lì, parlava proprio come ti chiami tu, e lui diceva il nome, Loretto, poveretto. Che sciogli, allucinante. No, ma già lo so, perché ti ripeto, quello di bambino diceva tutto. Ricordo le chiacchiereva, ad esempio, come hai detto tu, infatti, ragionava, non è che ripeteva. Le diceva: di chi sei tu? E lui: di Gavino. un bel bello, niente, bidico, cazzo, però c'aveva il becco diverso colore. Non so se ti ricordi, in via Manno, dove c'era un'armeria, c'era prima un negozio di animali, ma ti parlo di tanto tempo fa. Dove c'è l'armeria di Boselli? Esatto. Adesso c'è l'armeria, ma prima c'era un negozio, o era più su, adesso non mi ricordo se era lì oppure un po' più su. Beh, fatto sta, c'era questa ragazza che molto, una ragazza molto carina, vedeva gli animali. E io andavo spesso lì, no? E un giorno c'aveva i pappagalli, c'aveva i merlindiani piccoli, perché dice che per imparare bisogna prendere i piccoli di appena li stanno crescendo le piume, proprio dal nido li prendono. Fatto sta che se ne ha preso uno lì, questa padrona del coso, se l'ha preso e se l'ha portato a casa. E ha detto che non parlava niente, ripeteva quella notte il telo per non fischiare.